Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Ødon von Horvath, traduzione di Bruno Maffi. Cacciata dal paradiso. Eva non giura. «Conosci questo?» le domanda il presidente mostrandole la bussola. «Sì, serve a orientarsi. Sai di chi è?» «Mia no, ma immagino di chi possa essere. Non mentire, non mento. Vorrei dire tutta la verità come il signor professore. Come me?» Il presidente sorride ironico. L'avvocato difensore non l'abbandona con gli occhi. «Ebbene, racconta», dice il presidente. Ed Eva comincia. Quando incontrai Zeta nei pressi della grotta, vidi N venire verso di noi. Eri dunque presente? Sì. E perché lo dici soltanto ora? Perché durante tutta l'istruttoria hai sostenuto di non essere stata presente quando Zeta ha ucciso N? Perché non è stato Zeta a uccidere N. La tensione è enorme. Nella sala tutti spingono in avanti verso la ragazza, ma questa non si turba. Zeta è pallidissimo. Ed Eva racconta. Zeta e N si picchiarono furiosamente. N era più forte e buttò Zeta giù dalla roccia. Io pensai, è morto. E divenni pure io furibonda e pensai, ha letto il diario, sa tutto di me. Raccolsi una pietra, questa, e gli corsi dietro. Volevo tirargliela in testa, sì, lo volevo, ma improvvisamente un altro ragazzo balza fuori dai cespugli, me la strappa dalle mani e si lancia dietro N. Vidi che lo raggiungeva e che gli parlava. Ciò avveniva presso una radura. Mi nascosi perché temevo che i due ragazzi tornassero, ma non tornarono. Presero un'altra direzione, N due passi avanti. Improvvisamente lo sconosciuto alza la pietra e picchia N sulla testa. N cade e non si muove più. L'assassino si china su di lui, lo osserva, poi lo trascina via nel fosso. Non sa che ho visto tutto. Ritorno di corsa verso la roccia e incontro Zeta. Non si era fatto male cadendo, soltanto la sua giacca era stracciata e le mani graffiate. L'avvocato difensore è il primo a ritrovare la parola. Chiedo al tribunale di ritirare l'accusa contro Zeta. Un momento, interrompe il presidente e si volge verso Zeta che continua a guardare la ragazza istupidito. Ha detto la verità? Sì, risponde a bassa voce. Anche tu hai visto uno sconosciuto colpire N? No, non l'ho visto. Vedete? Sospira sollevato il pubblico ministero e si rovescia soddisfatto sulla poltrona. Mi ha visto soltanto raccogliere la pietra e correre dietro N, dice Eva. Allora sei tu che l'hai ucciso, conclude l'avvocato difensore. Ma la ragazza rimane calma. No, non sono stata io. Ci ritorneremo su questo punto, dice il presidente. Vorrei soltanto sapere perché finora tutti e due avete taciuto. Se siete innocenti, su, parlate. I due tacciono. Poi la ragazza riprende. Zeta si è assunto tutta la responsabilità perché credeva che fossi stata io a uccidere N. Non ha voluto credermi quando gli ho detto che era stato un altro. E noi dobbiamo crederti? Sorride. Non so. A ogni modo le cose sono andate così. E avresti tranquillamente assistito alla condanna di Zeta sapendolo innocente? Tranquillamente no, ho già pianto abbastanza. Ma avevo una paura folle della casa di correzione e poi vede bene che l'ho detto infine, che non è stato lui. Perché solo oggi? Perché anche il professore ha detto la verità. Straordinario, sogghigna il pubblico ministero. E se il professore non avesse detto la verità, chiede il presidente, sarei stata zitta anch'io. Credevo, dice l'avvocato difensore sarcasticamente, che tu amassi Zeta. L'amore è qualcosa di ben diverso. sorrisi. Eva guarda stupita il difensore. «No», dice a bassa voce, «non lo amo». Zeta balza in piedi. «Non l'ho mai amato», aggiunge un po' più forte e china il capo. Zeta si risiede lentamente e si guarda la mano destra. Voleva difenderla, ma lei non lo ama. Voleva farsi condannare per lei, ma lei non lo ha amato. Così era, dunque. A che cosa pensa Zeta? Pensa al suo ex avvenire? All'inventore? All'aviatore? Così era, dunque. Presto odierà la ragazza. Il pesce. Dunque, continua il presidente riaprendo l'interrogatorio, sei corsa dietro a N con questa pietra? Sì. E volevi ucciderlo? Ma non l'ho fatto. Chi l'ha ucciso? L'ho detto. È venuto un ragazzo che mi ha strappato la pietra di mano e gli è corso dietro. Che tipo era? Tutto è stato così rapido che non lo saprei. Ah, il grande sconosciuto, ironizza il pubblico ministero. Sapresti riconoscerlo, incalza il presidente? Forse. Ricordo soltanto degli occhi chiari, rotondi, occhi da pesce. La parola mi dà un terribile colpo. Mi alzo e grido, un pesce? Che cosa le succede? Chiede il presidente stupito. Tutti mi guardano. Sì. Che cosa mi succede? Penso alla testa da morto luminosa. Odo la voce di Giulio Cesare. Andiamo verso tempi freddi, verso l'era dei pesci. E l'anima dell'uomo diventerà impassibile come il muso di un pesce. Due occhi chiari e opachi mi guardano. Senza vita. È immobile sull'orlo della tomba aperta. Lo vedo anche al campo e sorride appena, con aria di ironica superiorità. Sapeva che avevo forzato la cassetta. Ha letto anche lui il diario, ha spiato, ha seguito Z e N. Ha un sorriso stranamente fisso. Rimango immobile, ma il presidente ripete: «Che cosa gli succede?» Devo dire che penso a T? Assurdo. Assurdo. Perché T avrebbe ucciso N? Non ne aveva il motivo. Dico, perdoni, signor presidente, ma sono nervoso. È comprensibile, ghigna il pubblico ministero. Lascio la sala. So che Z sarà assolto e la ragazza condannata, ma so anche che tutto andrà a posto. Presto comincerà l'istruttoria contro di me. Sarò sospeso dall'albo dei professori. Perderò il pane. Poco importa. Che cosa mangerò? Sarà strano, ma non me ne preoccupo. Penso al bar dove ho incontrato Giulio Cesare. Non è caro, ma non mi sbronzo. Torno a casa e mi corico. Adesso non ho più paura d'essere solo. Che egli abiti anche da me? Non a bocca. Non mi sbagliavo. C'è sul giornale del mattino. Zeta è stato condannato a una piccola pena, poche settimane di prigione. Ma il pubblico ministero ha chiesto che si proceda per assassinio contro la ragazza. Il nuovo processo avrà luogo fra 3 mesi. La giovane delinquente ha, è vero, ostinatamente proclamata la propria innocenza, scrive il cronista, ma le sue parole non hanno convinto nessuno. Chi una volta mente, dice il proverbio, tornerà a mentire. Neanche l'imputato le ha teso la mano quando alla fine del dibattito si è strappata alla guardia, gli si è precipitata incontro e gli ha chiesto perdono di non averlo amato. La odia di già. Adesso è completamente sola. O grida ancora. Non gridare, io ti credo. Pazienza. Abbi pazienza. Prenderò il pesce. Ma come? Gli devo parlare il più presto possibile. Nella posta del mattino c'è una lettera del provveditorato agli studi. Mi vieta di frequentare il liceo finché è in corso l'istruttoria. So che non vi metterò più piede, perché sarò certamente condannato e senza circostanze attenuanti. Ma che importa ora tutto ciò? Ora devo prendere un pesce per non sentirla più urlare. La padrona di casa mi porta la colazione, è imbarazzata. Ha letto la mia deposizione sul giornale. Le acque sono agitate. Gli inviati parlano del professore come di un manutengolo e c'è chi mi tratta da assassino morale. Nessuno prende le mie difese. Bei giorni per il fornaio N, a meno che il diavolo non se lo sia portato via stanotte. Mezzogiorno mi vede nei pressi del liceo, dove non ho più diritto di entrare. Aspetto l'uscita dei ragazzi, finalmente escono anche qualche collega. Non possono vedermi. Ecco T. È solo e piega a destra. Gli vado lentamente incontro. Mi vede, ha un attimo di esitazione, poi saluta e sorride. Buona che ti ritrovo, gli dico, perché ho diverse cose da discutere con te. Prego, professore, dice con un inchino. Ma qui per strada c'è troppo chiasso. Vieni, entriamo in una pasticceria, ti offro un gelato. Ah, grazie. Eccoci nella pasticceria. Il pesce ordina un gelato di fragola e limone che mangia a piccole cucchiaiate. Sorride anche mentre mangia, constato. E improvvisamente lo aggredisco con la frase «Devo parlarti del processo». Continua tranquillamente a mangiare. «Buono?» «Sì». Una pausa. «Dimmi», riprendo. «Credi che sia stata la ragazza a uccidere N?» «Sì». «Non credi che sia stato uno sconosciuto?» «No, l'ha inventato per scolparsi». Nuova pausa. Improvvisamente smette di sorbire il gelato e mi guarda sospettoso. «Ma che cosa vuole da me, professore?» «Pensavo», dico scandendo le parole e fissandolo negli occhi chiari e tondi, «che potessi sapere chi è lo sconosciuto». «Perché proprio io?» Mi arrischio a mentire. «Perché so che ti piace spiare». «Sì», dice tranquillamente. «Ho osservato molte cose». E ricomincia a sorridere. «Sa che sono stato io a forzare la cassetta?» Chiedo. «Hai letto il diario?» Mi guarda fisso. «No, ma l'ho vista, professore. Uscire furtivamente dal campo e spiare i due. Sento un brivido nella schiena». Mi osserva. «Io ero dietro di lei e lei mi ha messo la mano sul viso. Ha avuto una paura d'inferno, ma io no, signor professore». E si mette tranquillamente a sorbire il gelato. Mi stupisce solo che non si compiaccia del mio turbamento. Si limita a lanciarmi di quando in quando uno sguardo, come se mi studiasse. È strano, ma non posso fare a meno di pensare a un cacciatore. Un cacciatore che mira freddamente e non spara se non quando è sicuro di colpire, che non ci trova alcun piacere. Ma allora, perché va a caccia? Sì, perché? Andavi d'accordo con N? Sì, eravamo buoni amici. Come mi piacerebbe chiedergli, e allora perché l'hai ucciso? Perché? Perché? Lei mi interroga, professore, dice improvvisamente, come se fossi il ragazzo sconosciuto, mentre sa benissimo che nessuno sa che faccia aveva e se è mai esistito. Perfino la ragazza sa soltanto che aveva degli occhi da pesce, e tu, penso... «Io non ho occhi da pesce, occhi chiari, da capriolo. Lo dice la mamma e tutti lo dicono. Perché sorride, professore? È lei, piuttosto, che ha degli occhi da pesce. Io. Non sa che soprannome le diamo a scuola? Non l'ha mai sentito? La chiamiamo il pesce». E mi sorride. «Sì, professore, perché la sua faccia è sempre così immobile e non si sa mai che cosa pensa e se pensa. Diciamo sempre, il professore non fa che osservare. Se per esempio uno fosse investito per la strada, si limiterebbe a osservare, come se ne sta sdraiato solo per saperlo, e non proverebbe niente, anche se morisse. Si ferma come se si fosse tradito e lancia un breve sguardo spaventato. Perché? Ah, avevi già l'amo in bocca e ti sei salvato. Volevi abboccare e hai visto la lenza. Ora torni a nuoto nelle tue acque familiari. Non abbocchi ancora, ma ti sei tradito. Aspetta che ti prendo. Si alza. Devo andare. Mi aspettano a pranzo e se tardassi, la mamma mi sgriderebbe. Mi ringrazia per il gelato e se ne va. Io lo seguo con gli occhi e sento urlare la ragazza. Bandiere. Svegliandomi l'indomani mattina ebbi coscienza di aver sognato molto, ma non sapevo che cosa. Era festa. Si celebrava il compleanno del plebeo in capo. La città era piena di bandiere. Nelle strade sfilano le ragazze che cercano l'aviatore scomparso, i ragazzi che vorrebbero che tutti i negri morissero, i genitori che credono alle bugie scritte sui manifestini e quelli che non ci credono sfilano lo stesso. Divisioni di gente senza carattere, al comando di idioti e tutti con lo stesso passo. Cantano di un uccellino che canta sulla tomba di un eroe, di un soldato che muore asfissiato, di ragazze nero-brune che mangiano i rifiuti rimasti a casa e di un nemico che non esiste. È così che i deboli di mente e i bugiardi celebrano il giorno in cui è nato il plebeo in capo. E mentre così penso, noto con una certa soddisfazione che anche alla mia finestra sventola una bandierina. L'ho messa fuori ieri sera. Quando si ha a che fare con dei criminali e dei pazzi, bisogna imbandierare la casa anche se non si ha più casa. Quando non si sopporta più il carattere ma soltanto l'obbedienza, la verità fugge e viene la menzogna. La menzogna, madre di tutti i peccati. Fuori le bandiere! Piuttosto il pane che la morte. Così pensavo quando mi chiesi: ma che cosa vai fantasticando? Non ricordi che sei stato sospeso dall'insegnamento? Non sei stato spergiuro. Hai confessato di aver forzato la cassetta. Metti pure fuori la bandiera, rendi pure omaggio al plebeo in capo, striscia pure nella polvere, menti più che puoi, le cose stanno come stanno, hai perduto il pane, non dimenticare che hai parlato con un signore più potente. Abiti sempre la stessa casa, ma a un piano di sopra, a un altro piano, in un altro appartamento. Non vedi che la tua camera è diventata più piccola? E anche i mobili, l'armadio, lo specchio. Certo, nello specchio puoi ancora guardarti. È ancora abbastanza grande. Certo, certo, sei ancora un uomo. Non vuoi uscire con la cravatta storta, ma guarda fuori. Come tutto è diventato estraneo. Come le grandi proprietà sono diventate piccole, poveri e ridicoli i plebei. E come scolorite le bandiere. Puoi ancora leggere i manifesti? No. Puoi ascoltare la radio? No. Bisognerebbe che la ragazza non urlasse per non coprirne la voce. Non urla più. Piange. Ma copre tutti i rumori.